Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. '95, Sanremo. Anche quest'anno, come da 45 anni a questa parte, a fine febbraio, la Riviera dei Fiori ospita la più importante manifestazione canora italiana, il Festival. E anche quest'anno, come da tradizione, a presentarlo è Pippo Baudo, affiancato da Anna Falchi e Claudia Cole. È una delle edizioni più seguite, anche per via di un episodio che fa molto scalpore, quello dell'aspirante suicida salvato da Baudo, che avventurandosi su una balaustra riesce a convincere l'uomo a desistere tra gli applausi di una platea incredula. Pippo, ma qual è il motivo? Scusa. Sono disperato, Pippo. Ma la tua disperazione? Così non succede niente. Pippo, ti voglio bene, sono bisogno di io ti prego che ti aiuterò. Me lo prometto, non te lo prometto. Mi fai arrestare? Te lo prometto, vieni qui. Mi fai arrestare, mi fai? Non ti faccio arrestare per niente, tu vieni con me. Stai tranquillo. Mi fido della tua parola. La mia parola d'onore. Sono molte le canzoni in gara che sarebbero presto entrate a far parte della nostra memoria collettiva. Come saprai, di Giorgia, la vincitrice, ma anche Destinazione Paradiso, di Gianluca Grignani, tra le nuove proposte, e la spesso parodiata Voglio andare a vivere in campagna, di Toto Cutugno. Ma c'è un brano che, pur arrivando soltanto ai piedi del podio, farà veramente il giro del mondo. Si tratta di Con te partirò, scritta da Luciano 48 e Tony Pagliuca. A cantarla è Andrea Bocelli, la più potente voce italiana. È lui il nostro protagonista di oggi. È di Bocelli che oggi vi vogliamo raccontare I Magnifici Destini. In questo momento mi verrebbe dire che sognerei una bella vacanza. Come prossimo impegno, una bella vacanza. Ci trovasse ancora insieme. Per favore dimmi no. Rende stupidi anche i saggi l'amore, amore mio. La carriera di Bocelli comincia al Festival di Sanremo del 94, un anno prima di Con te partirò, quando il brano dal titolo Il mare calmo della sera si piazza al primo posto nella categoria Nuove proposte. La cosa più curiosa sicuramente è stato il momento in cui la gente ha cominciato a riconoscermi per strada. Cioè all'indomani dal festival, quando ho cominciato a sentirmi chiamare per strada, e poi al mio ritorno a casa c'era tutto il paese che mi aspettava, ho capito che qualcosa era accaduto. Beh, se è vero che dopo il primo Sanremo si fa sentire l'affetto dei concittadini, Bocelli non può ancora neanche lontanamente immaginare che la sua voce lo porterà in giro per il mondo. Se mai ci fosse stato bisogno di una prova dell'immensa popolarità di Andrea Bocelli nel mondo, arriva fresca una notizia da Londra. La prevendita dei biglietti del suo concerto previsto nella capitale del Regno Unito il prossimo 24 settembre ha polverizzato ogni record, registrando il sold out appena dopo poche ore. 70 milioni di copie vendute. Il suo nome inserito nella Hollywood Walk of Fame. Duetti con le più famose star internazionali. Sono solo alcuni esempi di quello che è riuscito a fare un ragazzo di provincia con in tasca tanti sogni. Per esempio, esibirsi durante la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Torino del 2006. Ed è il momento del grande Andrea Bocelli. Ama, credi e vai. Questo è un giorno che ricorderai. Alzati in fretta e vai. C'è chi crede in te, non ti arrendere. Romantico, riflessivo, sofisticato nei gusti. Andrea Bocelli è tutto questo, ma anche un uomo molto attaccato alle sue origini. Ecco perché quando lo intervistano in uno dei tanti programmi stranieri, risponde con un inglese che nasconde traccia di italianità, che lui è un uomo fortunato, perché la sua famiglia, i suoi amici e le sue ragazze gli hanno sempre voluto bene. I'm a lucky man, above all because I had the affection by the family, by the friends, by the girlfriends, and that's the most important thing. L'Aiatico, comune di poco più di 1000 anime poco lontano da Pisa. E questo è il posto dell'anima di Andrea Bocelli, il posto dove è nato, dove ancora vivono le persone che ama e dove ritorna appena gli impegni glielo consentono. È cresciuto nella fattoria di famiglia nel cuore della campagna toscana e nonostante il resto del mondo l'abbia accolto a braccia aperte, si sente profondamente parte di questa terra. La vista di Bocelli è debole fin dalla nascita per colpa di un glaucoma congenito, ma è a 12 anni che diventa completamente cieco. E per colpa di una bravata, come scrive nella sua autobiografia. Una bravata che gli costa tantissimo. È andata così. Sta giocando in un campetto da calcio vicino a casa, fa il portiere. Per prendere un pallone che sta arrivando nella sua direzione fa un'uscita spericolata e questo gli arriva proprio sull'occhio con cui riesce ancora a vedere luce e colori. Difficile per un ragazzino capire il senso di una tale disgrazia. Bocelli, profondo fin da bambino, incomincia così a interrogarsi sul senso della vita. Il mio rapporto con la fede è un rapporto non semplicissimo, perché come tutti i bambini ho avuto anch'io i miei momenti di buio. In particolare ricordo intorno ai 18-20 anni. È stato un periodo in cui mi amavo definirmi agnostico, no? Perché probabilmente ero affascinato da questa parola così complessa, no? Agnostico. Perché capivo comunque fondamentalmente la complessità di capire la fede con la ragione, insomma. E quindi mi definivo agnostico. Poi è iniziata una ricerca quasi spasmodica, perché senza la fede è difficile dare un senso a questa vita. Io conosco i tuoi respiri, tutto quello che non vuoi, lo sai bene che non vivi, riconoscerlo non puoi, e sarebbe come se questo cielo in fiamme ricadesse in me. Come scelta. A volte sembra che la natura tolga qualcosa per dare altro. Nel caso di Bocelli, una voce fuori dal comune e un orecchio musicale che lui alimenta fin da piccolo. Talentuoso, concentratissimo, inizia a studiare pianoforte con la stessa costanza che mette nelle materie scolastiche, non salta una lezione con il suo insegnante e si esercita appena può accompagnando le attività dei suoi familiari con un sottofondo per il quale pochi anni dopo il mondo avrebbe pagato oro. Presto al piano affianca lo studio del flauto e del sassofono, convinto che una preparazione completa sia necessaria per fare buona musica. Un grande cantante non è quello che non ha difetti, ma è quello che ha grandi pregi, no? La Valdera è il territorio che abbraccia i dintorni di Pisa. Lari, Capannoli, Ponsacco, Pontedera, fino a Calcinaia, il Valdarno Inferiore e la Piana di Lucca. E tra queste meravigliose vallate fatte di vita di provincia, prodotti genuini, ritmi lenti, che è cresciuto Andrea Bocelli. Si tratta di una zona piena di chiese e chiesette. Non è difficile, percorrendo un tratto di strada in macchina, oltrepassare una curva e scorgerne una poco più in là. In queste chiese il futuro tenore comincia a cantare. Durante le messe, ma anche i funerali e i matrimoni, la gente del luogo scopre la potenza e l'armoniosità di questa voce unica al mondo. Naturale che parenti e amici se lo contendano per le feste. Lui, incapace di dire di no, non si tira mai indietro e ogni volta è un piccolo trionfo, soprattutto quando, divertito più di tutti, improvvisa estemporanee esecuzioni che scatenano gli applausi di tutti i presenti. Eppure non ha ancora in mente di fare questo di mestiere, anzi, la sua strada sembrerebbe un'altra. Dopo il liceo si iscrive all'Università di Pisa, dove si laurea in giurisprudenza. Ma le ragioni del successo, lo dico spesso, sono sempre misteriose e rimarranno ignote, perché se non fosse così, allora un successo potrebbe essere analizzato e ripetuto. Invece, quando anche questo avviene, poi fallisce miseramente ogni tentativo. Gloria. L'incontro di Andrea Bocelli con la lirica avviene presto, la scopre da ragazzino e non smetterà di amarla per tutta la vita. L'amore è sempre o mai. L'amore o è subito o difficilmente. Sì, ci sono anche eccezioni al riguardo, però... Bocelli ha la fortuna di studiare con il grande maestro Franco Corelli, tenore che rappresenta una figura importantissima nel panorama musicale del Novecento. È lui che, insieme al piacere dell'ascolto, gli insegna la disciplina e lo stile nell'esecuzione. Insegnante vecchio stampo, è rigido e non ammette distrazioni, ma forse è anche grazie a questo metodo se Andrea, già semplice e umile di natura, impara quanto conta migliorarsi costantemente, sia sul piano umano che su quello professionale. L'opera è una forma altissima di spettacolo che riassume in sé tante forme d'arte tutte insieme. Mestierante. È così che Bocelli ama definirsi. Nessuna connotazione d'artista, nessuna allusione al divo. Lui è un ragazzo di provincia e lo resta anche oggi che il mondo è ai suoi piedi. È convinto che ci sia sempre da imparare, che la sua voce possa crescere ancora. Questo fa sì che riesca a reagire bene anche alle critiche che ogni tanto arrivano. Cioè, prendersela con chi ti critica non giova mai innanzitutto a te stesso, perché è inutile cullarsi negli allori. Bisogna cercare di migliorare per dare un senso alla nostra carriera. Intanto che studia giurisprudenza all'università, Andrea si mantiene cantando. Dai piano bar ai locali di dubbio gusto della provincia annoiata, non rifiuta mai un ingaggio. Sanno tutti di avere a che fare con un talento straordinario, eppure la grande occasione stenta ad arrivare. È per questo che lui, con i piedi ben piantati per terra, pensa che nel suo destino ci sia scritto che farà l'avvocato. Poi, nel 92, finalmente, la svolta. Bocelli ha già più di 30 anni. Non è certo vecchio, ma nemmeno più giovanissimo. E un amico gli suggerisce di partecipare a un'audizione. A indirla è il primo magnifico incontro del destino di Andrea Bocelli, il più eccentrico bluesman italiano. Zucchero. Una persona a cui devo molto, a cui il mio destino è molto legato. Io ho cominciato con una sua canzone. Sto parlando di Zucchero Fornaciari. Sì, beh, insomma, non posso non fare un concerto, dove non c'è diamanti, dove c'è, non c'è diavolo in me, senza una donna, d'une mosse. Ecco. Ci sono delle canzoni che non posso non fare, perlomeno, insomma, immagino che il pubblico rimarrebbe un po' deluso se non la sentisse. Zucchero, nel 92, si trova diviso tra una carriera che va a gonfie vele e una moglie da cui si è appena separato. Quindi, chiuso da solo nella sua casa sul mare, si butta anima e corpo nel nuovo album e compone il brano Miserere. No, la storia è che io ero sempre lì, negli anni della depressione, nel 92, stavo su quella casa sul mare con mio cane. E l'unica cosa che mi faceva stare un po' meglio era sentire, non so per quale motivo, le romanze di Puccini, tre o quattro, mica di più. E poi mi faceva stare un po' meglio Bukowski, perché stava peggio di me, e mi è venuta fuori questa Miserere, che era tra gospel e lirica, chiamiamola così, con qualche riferimento pucciniano, dai, chiamiamola così. Miserere è diverso da qualunque brano abbia scritto finora. Lui, invaghito dei bluesmen americani, folgorato dalle sonorità del delta del Mississippi, ha composto per la prima volta tutta un'altra cosa. Il risultato di 3 anni di disperazione, lo definisce. Sul tappeto soul e R&B sono cuciti suoni ricercati che, anche attraverso l'aiuto dei computer, producono un risultato sofisticatissimo. Ma lui non è convinto. E quando va dai produttori neanche lo propone. Finché loro, che conoscono bene Zucchero e sanno che ha sempre qualcosa nel cassetto, lo convincono a farglielo sentire. Ma tu sei matto quando ho sentito. È come avere una Ferrari nel garage, tenerla nel garage, poi sono arrivati gli internazionali. Vabbè, dico, allora l'unica cosa che può giustificare che la faccio se c'è Pavarotti. il tenore per eccellenza. Lui volevi. Eh già, Pavarotti. Il tenore dei tenori, la voce che ha incantato il mondo, un artista così lontano dal mondo della musica pop e rock. Una personalità che per Andrea Bocelli ha sempre rappresentato un mito a cui ambire. E lui, Luciano Pavarotti, il secondo magnifico incontro del destino di Andrea Bocelli. Che ogni passo che faccio ha un ritmo, che ogni momento della mia giornata è accompagnato da qualche motivo che mi aiuta oppure che mi tartassa anche a volte, perché mi martella quando hai un motivo in testa che non riesci a cacciare. Comunque c'è sempre una questione musicale in fondo a ogni gesto, ogni... Stringiti forte a me, non chiederti perché, la sera scende già, la notte impazzirò. I primi due magnifici incontri del destino di Andrea Bocelli, Zucchero e Luciano Pavarotti, sono indissolubilmente legati tra loro. Questo perché la carriera di Bocelli comincia con un brano che coinvolge tutti e tre, Miserere. L'ha scritta a Zucchero, in un momento molto tormentato della sua vita personale, e adesso vuole che a cantarla sia il più grande dei maestri, Pavarotti. L'impresa dell'impossibile. Il tenore è un personaggio irraggiungibile, di fama mondiale, e soprattutto non ha mai cantato con dei rocker. In effetti, dopo il primo tentativo abbozzato, fallito miseramente, va male anche il secondo. I produttori volano alla volta di Filadelfia, dove Pavarotti sta per tenere un grande concerto. Gli propongono di cantare con Zucchero e ottengono solo un no. Di quelli secchi, che lasciano poco spazio alla speranza di un cambio di rotta. Fornaciari però non è uno che molla. Quando si mette in testa una cosa deve farla. E così si fa venire un'idea. Indice un'audizione per registrare il brano che poi andrà a portare lui stesso di persona a Pavarotti. Ovviamente l'elenco dei candidati è lunghissimo. Qualcuno non è minimamente all'altezza di un'esecuzione così complessa. Altri si avvicinano un po' di più all'interpretazione ricercata. Ma nessuno è davvero giusto per Miserere. Finché non arriva il turno di Bocelli. Lenti scure, sorriso sulle labbra e una voce che fa venire i brividi. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come, ma è entrata dentro e c'era stata. Ai magnifici destini stiamo raccontando la storia di Andrea Bocelli e di come i suoi incontri del destino, Zucchero e Luciano Pavarotti, siano incredibilmente legati tra di loro. Pavarotti è stato per il tenore pisano un mito irraggiungibile, un faro, soprattutto per quanto riguarda la tecnica di canto, un maestro che gli ha insegnato a rincorrere l'obiettivo di cantare senza faticare, in modo da poter usare la voce come uno strumento in grado di dare il meglio di sé senza incontrare asperità, sforzo. Zucchero è stato il primo che ha creduto in lui. Tutti e tre sono accomunati dall'attaccamento alla loro terra e dalla capacità, che forse è anche un'esigenza, di restare con i piedi per terra, anche dopo aver toccato le vette del successo internazionale. Secondo me è un grande aiuto di nascere a Modena, perlomeno in Emilia, dove la gente è coi piedi per terra. Modena poi è particolare. Modena ha Ferrari, che ci ha insegnato a stare coi piedi per terra, anche essendo il primo nel mondo. Sì. Per cui noi modenesi siamo dei dubbiosi e degli attaccati alla nostra terra. Tutto comincia quando Zucchero, che ha scritto il brano Miserere, decide di farlo incidere a un tenore per poi farlo sentire già registrato a Pavarotti, in modo da convincere il maestro a cantarlo. Insomma, quando indice l'audizione cerca qualcuno di bravo che possa servirgli a raggiungere il suo obiettivo, che è Big Luciano, ma non gli interessa scoprire un talento. E invece... è quello che fa. Già, perché Andrea Bocelli, che al momento ha alle spalle soltanto della gran gavetta nei piano bar, si presenta al casting insieme a decine di altri pretendenti, ma gli basta un accenno della lirica per sbaragliare la concorrenza. Zucchero lo capisce immediatamente che è quello giusto, per la voce, ma anche per la sua personalità delicata e nello stesso tempo così incisiva, di quelle che lasciano il segno. In comune hanno molto: l'amore per la provincia, l'attaccamento alle radici, la voglia di mettersi sempre alla prova lavorando ogni giorno. No, io penso che devi fare del mestiere, devi fare della bottega. Sei un musicista, sono un musicista, credo preparato. Mi metto lì alle 11 di mattina, dopo aver fatto colazione, vado lì. comincia? Ascolto, faccio, guardo, prendo appunti. Nel mio studio mi arrovello, mi girano i coglioni, vado fuori. Voglio vivere con te, l'aria del mondo, perché questo campo non costa niente. La fioretta delle piante tiene in festa questo cuore, sai perché? Il feeling tra Bocelli e Zucchero è immediato. Il tenore incide Miserere e incanta il bluesman, che porta immediatamente il nastro a Pavarotti. Il maestro, appena sente la registrazione, resta estasiato. Ma che bisogno hai di me se hai già un tenore così? Gli dice. Ma tu sei più famoso, risponde Zucchero. Il risultato è che Pavarotti incide a Miserere, ma a seguire Zucchero in tutta la lunga tournée europea è Bocelli. Andrea Bocelli partecipa due volte al Pavarotti International. Viene riconosciuto il suo talento. Eppure nessun discografico si sente di scommettere davvero su di lui. Di investirci dei soldi, per capirci. Come può un tenore pur bravissimo far vendere album? Come si può conciliare un genere così elitario come l'opera con la musica leggera? Come guadagnare, perché di questo si tratta, dalla voce di un tenore al di là dei live? Insomma, tutto questo disinteresse dei discografici che non vogliono rischiare finisce per rendere insicuro il già modesto Bocelli. Molto spesso i critici mi prendono come bersaglio, no? E io capita abbastanza spesso che sono anche d'accordo con loro. Sì. Forse se la facessi io la critica su di me sarei anche più severo. Guarda questa terra che gira anche per noi, a darci un po' di sole, sole, sole. Ancora una volta il cambio di rotta arriva dalla provincia. Parliamo ancora di Modena, di quella città che è una vera e propria fucina di talenti e che partorisce uomini e donne che sanno fare scelte. Già, donne. Caterina Caselli, cresciuta tra le balere e passata a muovere i fianchi a ritmo del beat, è diventata una delle più importanti talent scout italiane, una di quelle che vogliono rischiare per i talenti in cui credono. E Bocelli è uno di questi. No, ma volevo dire che comunque sia, il successo mio è proprio atipico in quanto è senza regole. Fuori dalle regole, fuori dagli schemi, ho portato un tipo di vocalità, uno stile che era improponibile a qualunque compagnia discografica. Ci voleva solo una mossa di coraggio, insomma. Ma le cose fatte così o non funzionano, se funzionano, funzionano bene. La Caselli mette sotto contratto con la sua Sugar il giovane tenore e lo spedisce dritto dritto a Sanremo del 94, dove trionfa nella categoria Nuove Proposte con la canzone Il mare calmo della sera. L'anno dopo, tra i big, si posiziona solo al quarto posto con uno dei brani destinato a diventare tra i più celebri, Con te partirò. Adesso può finalmente dirlo. Vorrebbe essere ricordato per la sua voce. The most important thing for me is to be remembered like a voice. Quello che succede in effetti è un po' un successo all'incontrario, perché l'Italia è l'ultima ad accorgersi del mostro sacro che ha in casa, soprattutto grazie al fatto che Con te partirò diventa la colonna sonora di un celebre spot di telefonia. All'estero invece è un trionfo. Bocelli entra nel Guinness dei primati come primo interprete ad avere contemporaneamente tre album nei primi posti della difficile classifica americana. I francesi lo adottano e lo reclamano nei programmi più in voga per farlo duettare al fianco di star come Charles Aznavour e Cyndi Lauper. L'album Romanza approda in Canada, Argentina, Brasile, Australia e Nuova Zelanda. Fin da ragazzo soffrivo un po' del fatto che le classifiche, specialmente italiane, fossero dominate, occupate da prodotti in lingua straniera, soprattutto inglese, no? Questa reazione improvvisa degli italiani, che poi non solo io, sono riusciti a andare di là dall'oceano con dei prodotti in lingua italiana, secondo me è molto importante, perché la nostra comunque rimane una delle culture più antiche e più profonde, no? Ecco. Quando Bocelli sale alla ribalta, nella seconda metà degli anni 90, la scena internazionale sta aspettando da un bel po' un tenore, possibilmente italiano e non di scuola, che riesca a unire le caratteristiche del bel canto all'italiana applicato alle varie forme di musica popolare, come il melodramma, la canzone napoletana, il repertorio leggero creato ad hoc, a una punta di swing. Caterina Caselli, attenta e lungimirante, lo sa benissimo. Ecco perché quando scopre il talento del giovane toscano non ha dubbi, lo deve produrre. L'incontro tra l'enfasi e quel tocco leggero è la chiave dello show business musicale. Ecco perché è necessario dare vita a un repertorio che evochi fortemente la tradizione musicale italiana, ma contemporaneamente sia adatto ai duetti con le star straniere. Ma sono sempre stati un po' i giornalisti che mi hanno attribuito questo aspetto, se vogliamo, un po' pionieristico di riportare la canzone, cioè le opere in mezzo, le aree d'opera in mezzo alla gente. In realtà. Sì. Tutti i grandi tenori, come dicevi prima te, sono diventati popolari grazie alle canzoni. Insomma. E così la popolarità di Bocelli è in ascesa inarrestabile. Con Te partirò lo lancia in un tour mondiale che gli porta premi e primi posti nella classifica di molti paesi. Quando nel 1996 esce il disco Romanza, dopo poche settimane è già disco di platino ovunque e la stampa internazionale comincia a paragonarlo a Enrico Caruso. Lui teme di non riuscire a essere all'altezza delle aspettative, ma ogni volta sorprende. Come quando canta in coppia con un soprano inglese la versione tradotta di Con te partirò, Time to say goodbye. Lei è il terzo magnifico incontro del destino di Andrea Bocelli e si chiama Sara Brightman. I magnifici destini. Resta qui con me. Io sarò per te un angelo vero che sogna e che sa prenderti la mano e darti la. La carriera di Andrea Bocelli, tenore che strizza l'occhio alla musica leggera, è costellata di magnifici destini. I primi due sono indissolubilmente legati tra loro. Zucchero fa incidere a Bocelli una versione di Miserere da far sentire a Pavarotti. Pavarotti ne è estasiato e Bocelli si ritroverà a seguire in tour Zucchero proprio al posto del suo mito, Big Luciano. Da qui è tutto in discesa. La firma di un contratto con la Sugar di Caterina Caselli, Sanremo tra le nuove proposte e poi il quarto posto di Con te partirò nel 95 tra i big. Solo una svista della giuria, evidentemente, perché la canzone in pochissimo tempo sale in vetta alle classifiche internazionali e lui diventa uno degli interpreti più richiesti di sempre. A rendere ancora più solida la sua fama contribuisce tra i tanti un duetto indimenticabile, è Time to Say Goodbye, versione tradotta del suo successo in coppia con Sara Brightman. Io non volevo essere la tipica cantante che viene vestita, esce e canta la sua canzone. Io volevo che per 55 minuti o quello che era, la gente si sentisse trascinata dentro un'atmosfera divina, in un suono rilassante, piacevole, meraviglioso. Sara Brightman, inglese dello Hertfordshire, viene dai grandi musical del West End, che spesso dopo essere allestiti a Londra vanno a Broadway o viceversa. Ha esordito in Cats, voluta a tutti i costi da quello che sarebbe diventato suo marito, il grande Andrew Lloyd Webber. È stato lui, già produttore di pietre miliari come Jesus Christ Superstar, a riconoscere in lei un talento speciale, tanto da cucirle addosso la voce e il personaggio di The Phantom of the Opera. Dream again, for now I've found. Soprano dalla voce straordinaria e donna dalla spiccata personalità, Sarah Brightman sul palco è meravigliosa. Le canzoni di The Phantom of the Opera sono state scritte appositamente per la mia voce e questa cosa è pazzesca perché normalmente il cantante deve cantare qualcosa composto da Puccini o da Gershwin e non sa come loro hanno deciso di comporre queste melodie. Può immaginarlo, ma in questo caso io sapevo come le aveva composte perché le aveva composte appositamente per me. Quando Andrea Bocelli e Sarah Brightman si incontrano per la prima volta, scocca una scintilla. In sala di registrazione, che ha la fortuna di sentirli anche solo accennare le prime strofe della canzone insieme, ha i brividi. Si capisce subito che si tratta di una coppia unica, che le loro voci si completano, producendo un effetto sensazionale. E all'uscita del singolo lo scrivono i giornali di tutto il mondo. Clamoroso successo di Andrea Bocelli anche in Gran Bretagna. La canzone Time to Say Goodbye, che esegue con Sarah Brightman, è al secondo posto in Germania. Il brano Time to Say Goodbye, interpretato con Sarah Brightman, ha venduto 2.800.000. Solo l'album Romanza, con la canzone vincente Con te partirò, ha già superato i 4 milioni di copie. Bocelli è inarrestabile e passa con disinvoltura dall'opera al pop, duettando con star nostrane e internazionali. Interpreta Rodolfo nella Bohème e canta con Giorgia Vivo per lei degli Oro. Tiene un concerto nella Basilica di San Marco a Venezia con il coro della Fenice e accetta l'invito nell'album di Baglioni. Chiude i Giochi Olimpici di Torino, raccoglie i fondi con un evento al Colosseo per i terremotati dell'Aquila e si dà perfino al cinema, vestendo i panni di Cavaradossi nel cortometraggio firmato da Zeffirelli, Omaggio a Roma, voluto fortemente dal Comune di Roma per promuovere l'immagine della capitale nel mondo. Io non voglio far polemiche, però ho sempre cercato di evitare di fare il crossover. Cioè, il crossover vuol dire mescolare un po' i generi, fare della contaminazione, no? E questa è una cosa che a me artisticamente non è mai interessata. E la musica operistica da un lato, la musica pop, cioè popolare, dall'altro sono come due lingue diverse, sono mondi diversi che si sono andati, allontanandosi anche nel corso dei decenni. E quindi se uno vuole cimentarsi in queste due lingue bisogna che le impari entrambe, senza contaminarle, perché contaminare la lingua non serve, non giova, insomma, almeno sul piano musicale non giova. Nel 2007 muore Luciano Pavarotti, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della musica, ma anche nella stessa cultura italiana. Andrea Bocelli, che diverse volte ha cantato nella sua carriera con il maestro, lo omaggia, visibilmente commosso, interpretando l'Ave Verum Corpus di Mozart ai funerali, durante la comunione. Da brivido. Il 15 settembre 2011, invece, è a New York. Davanti a un Central Park gremito ed emozionato, si esibisce nel concerto One Night in Central Park, affiancato da alcuni degli artisti americani più influenti del panorama della musica. Dalla regina Celine Dion al leggendario crooner americano Tony Bennett, dal baritono gallese Brent Terwell al musicista David Foster, mentore di personaggi quali Barbara Streisand e Michael Jackson. E poi ancora il trombettista Chris Botti, la violinista Nicole Benedetti, il flautista Andrea Griminelli. Sono gli altri adesso, i più grandi, a chiedere di potersi esibire con lui. E lui, che non dice mai di no, non si tira indietro. Poi prepara le valigie e torna a casa, in quella terra di provincia, dove tutto scorre sempre più lento e che non ha mai lasciato. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai.